Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7 e 18 minuti, ben ritrovati. Si apre oggi la 94esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, come sapete. Allora siamo qui a parlare di che cosa? Beh, parleremo oggi un po' di... ancora di questi vitalizi della politica. Abbiamo scoperto, no, che in Sicilia ci sono anche i vitalizi per eredità, tramandati per eredità da padri a figli. E va bene, avremo ospite il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Ardizzone, insieme al direttore del TG4 Mario Giordano. Poi avremo ospite anche la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli del Partito Democratico, per cercare di capire che cosa succede dal punto di vista delle riforme, con le minacce anche da parte delle opposizioni. Faremo vedere i sorci verdi, non entreremo in aula, faremo l'Aventino, no, non è vero. Insomma, la politica in questi prossimi mesi ne vedrà delle belle, così almeno a giudicare dalle minacce. Ora però andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 16 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così un qualcosa che vedremo tra poco: fisco e contribuenti in lite per 52 miliardi. Pensate che ci sono davanti alle commissioni 570.000 cause pendenti. E poi l'attualità internazionale è sulle varie prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera: minacce dell'ISIS all'Italia. Repubblica: Libia, incubo ISIS, siamo già a sud di Roma. La Stampa: l'ISIS minaccia, siamo a sud di Roma. Come vedete, questo è il titolo che inquieta di più. Il Giornale: l'Italia torna in guerra, caos islamico in Libia. Per il secolo XIX, Europa, sangue e terrore. Il Messaggero: via dalla Libia, minacce all'Italia. E anche italiani in fuga dalla Libia è l'apertura del Giorno. Vabbè, come detto, iniziamo però da altre cose, poi le vedremo, quelle. Il Sole 24 Ore apre con questo dato sul contenzioso risalente alla fine del 2014, quindi un mese e mezzo fa. Le liti tributarie valgono un tesoro da 52 miliardi. Questa è la cifra che Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente spiegano a pagina 3. C'è un arretrato di 570.000 fascicoli dall'IVA all'IRPEF, dai tributi locali all'IRAP. Le liti col fisco valgono più di 52 miliardi di euro. Sulle scrivanie dei 3.400 giudici tributari di primo e secondo grado, quindi escludiamo la Cassazione, ci sono 570.000 fascicoli di controversie fiscali ancora in attesa di decisione. I dati sono aggiornati al 31 dicembre, verranno presentati giovedì prossimo a Roma nella relazione sullo stato della giustizia tributaria, ma il Sole 24 Ore è in grado di anticiparli, appunto. Se la mole dell'arretrato resta notevole, va comunque rilevato un calo di 55.000 liti pendenti rispetto al 31 dicembre 2013. Dunque, in un anno c'è stato un calo, ma, fa sapere il Sole, si tratta di un dato da maneggiare con cura. Di fatto la diminuzione arriva tutta dalle commissioni tributarie provinciali e dipende più dal calo dei nuovi ricorsi, arrivati nel 2014, cioè 21.000 in meno, che da un aumento di quelli decisi. Sono stati decisi solo 1.000 in più. In realtà, fortunatamente, ci sono stati meno ricorsi. Comunque, questo è il contenzioso del fisco, questa cifra: 52 miliardi, 570.000 fascicoli ancora da approvare e alè. Allora, vicende ben diverse, anche numericamente, e cifre ben diverse, ma problematica che è stata lanciata dall'Associazione Nazionale Europea degli Amministratori di Immobili e trova spazio sul Secolo XIX, pagina 8. La crisi e i furbetti del condominio è fuga dalle assemblee. Oh, gli italiani ormai non vanno neanche alle assemblee di condominio. Io non vado da sempre, cioè non sono mai andato in una riunione condominiale in 44 anni. Ma io sono un orso bruno, insomma, non faccio testo. Comunque, le riunioni vengono boicottate per far mancare il quorum E gli amministratori così dicono: abbiamo le mani legate, cioè soprattutto al sud è un boom di riunioni saltate, di riunioni alle quali la gente non si presenta per non pagare, quindi non si approvano i lavori straordinari, non si approvano le spese. Insomma, un disastro, crisi, morosità, paura del futuro, e così i condomini non vanno alle riunioni e i condomini sono sempre più bloccati, dominati dalla mancanza di soldi, ma anche il timore di non averli, e quindi la gente non si presenta per paura che poi si approva magari qualche spesa e quindi non si va, facendo mancare il numero legale per le riunioni. Oh, devo andare invece su Repubblica. Su Repubblica oggi c'è un'intervista molto molto intensa che vi voglio consigliare nella lettura. È un'intervista a Emma Bonino. Sapete che Emma Bonino di recente, in diretta Radio Radicale, ha dichiarato: ho un tumore al polmone e mi sto curando. La scorsa settimana, nei giorni scorsi, ha fatto anche la prima apparizione pubblica con il turbante, evidentemente per gli effetti della chemio, che non voleva mostrare in pubblico. E ora Giovanna Casadio e Dario Crestodina vanno a trovarla, e il racconto è un racconto di quelli da leggere, ripeto, a pagina 23 di Repubblica, un'intera pagina. Raccontare il male mi ha aiutato, ora vediamo chi la spunta. La bestiola la chiama lei, oppure lo stronzo. Non ho paura, sono ottimista, ho avuto una vita fantastica, gli affetti familiari, la politica radicale, le amicizie, i grandi dolori, le solitudini. La cosa importante è saper provare, vivere, accettare e governare le emozioni e mai diventare indifferenti a ciò che ci attraversa o ci sfiora. Noi, calvi di transizione, abbiamo sempre freddo anche in casa, anche col cappello, e dunque mi son fatta il turbante. Me la sono annodata, mi hanno dato sulla nuca una sciarpa di cotone, non ricordo più se l'ho presa in Senegal o nel Mali durante la campagna contro le mutilazioni genitali femminili, insieme a una donna meravigliosa, una meravigliosa amica, Kadi Koita. Come sta allora Emma? Chiedono i giornalisti di Repubblica. Bene, sopporto la chemioterapia senza eccessivi disagi, sono disciplinata, dovreste vedere quanto sono rigorosa, seguo accuratamente le disposizioni dei medici, mangiare 3 volte al giorno, evitare carne e dolci, limitare i formaggi, faccio colazioni nordiche o forse dovrei dire islandesi, pane, burro, tonno, capperi e una tazza di brodo, mi manca solo l'aringa. Io che ero abituata a un caffè latte e 3 biscotti, ora mangio solo salato, non sento più i gusti. L'ordine dei dottori è non perdere peso, dovrei tornare a com'ero prima di conoscere i radicali, una bella contadinotta bionda di 65 kg. E poi dovrei dormire, non viaggiare e non fumare, chiedono i giornalisti. Beh, sulle sigarette ho ottenuto una deroga, via libera, con sospiro, perfino del mio amico Umberto Veronesi. Una ogni 2 ore fino a 10 al giorno, anzi vi avverto, è giunta l'ora e ve ne tocca una, e a quel punto si accende una Muratti. E ritorna alle parole, la confessione pubblica il 12 gennaio, mi è costato pensare e mettere in fila una dopo l'altra le parole, mostrare una mia fragilità intima, io che sono una piemontese riservata anche sulle disgrazie, che da sempre prova a vivere sostenendo che il personale è politico, ma credo anche che il privato non sia pubblico. Può sembrare uno scioglilingua, ma spero si capisca. Ero emozionata come se avessi dovuto annunciare un divorzio. Io che non mi sono mai sposata pur avendo avuto 2 grandi amori, perché sono refrattaria alla convivenza. O forse, pensandoci bene, sono stata una virtuosa per mancanza di tentazioni. Alla fine, avere fatto quella confessione mi ha aiutata. Molti malati mi hanno scritto: grazie, ha aiutato anche me. Avere la consapevolezza che noi non siamo il nostro male, che siamo altro, che dobbiamo sforzarci di continuare a essere le stesse identiche persone di prima. E questo costituisce la nostra speranza e la nostra fede laica. So che ora mi devo occupare di questo stronzo e basta. Vabbè, poi nell'intervista parla anche di altro, parla dell'attualità internazionale, ma insomma io credo che questa intervista soprattutto sia intensa e importante per come Emma Bonino racconti la sua vicenda personale. La trovate su Repubblica, ripeto, a pagina 23. Che dire? C'è uno che ieri mi ha scritto: devo andare a Pesaro e devo fare 300 km, vorrei 300 km da mani sul volante. No, dopo, caro ascoltatore, ti viene anche a noia. Ma comunque, eccola qui la notizia, caro ascoltatore, che ti fa tenere certamente le mani strette sul volante. L'articolo che ci fa più sare di questa giornata: il premio Mani sul Volante oggi va a Camilla Mozzetti. Sul Messaggero a pagina 15, sapete quanti sono i furbetti? No, non furbetti, ma c'è la caccia ai furbetti della legge 104. Sapete quanti nel mondo della scuola hanno, usufruiscono della legge 104? Sono 86.361 professori di ruolo, circa il 13,3%, e 30.250 collaboratori del personale ATA su 180.000, un sesto dunque. Questi numeri sono forse un po' troppi, tanto che il Ministero, con Davide Faraone sottosegretario, ha deciso di vederci chiaro: un professore su sette gode dei permessi per i portatori di handicap o per assistenza ai familiari malati. Il sottosegretario dice: vogliamo colpire chi danneggia non solo i ragazzi, ma anche i lavoratori veramente bisognosi. Tra le regioni in testa in questa classifica, Lazio, Sardegna e Umbria, dove il ricorso a legge 104 è del 20% delle persone. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, lo zio Fester, Benoantri. Lo zio Fester, va bene. Lo zio Fester mi fa già venire in mente qualcuno che mi fa un pochino andare di traverso anche codesto lunedì. E vabbè, d'altronde, cosa vuoi mandare in onda? Nell'area per Maccarone, che è solissimo! E non può sbagliare! È il gol dell'1-1, ancora Big Mac! Maccaroni a pranzo ieri. Va bene. Che dobbiamo fare? Ridiamo. Il titolo migliore è del giornale, se per chiudere questa parentesi. Ogni domenica il peggiore Milan dell'anno. Va bene, ma non si riferisce a me, credo almeno. Allora, parliamo di attualità internazionale, perché come sapete c'è grande tensione e tutte le prime pagine dei giornali sono dedicate a questo, per la vicenda della Libia, paese allo sfascio dove ormai lo Stato islamico si è insediato con diverse fazioni. Gli italiani sono andati tutti via, sono rimasti pochissimi davvero. E tra l'altro gli sgherri dello Stato islamico controllano anche i migranti, cioè controllano coloro che partono, tanto che ieri è successo questo che secondo me è l'episodio più clamoroso. Giustamente il giorno lo mette a pagina 5, un'intera pagina, mentre gli altri giornali lo mettono un po' come trafiletti, ma secondo me è il fatto del giorno. Agguato in mare coi Kalashnikov, una motovedetta della Guardia Costiera italiana si arrende agli scafisti. Succede questo, che la Guardia Costiera italiana è andata, ed è andata senza armi, perché non hanno le armi in dotazione. Invece di parlare delle solite cose, non hanno le armi in dotazione a recuperare dei migranti al largo delle coste di Tripoli. E si sono presentati, mentre stavano trasbordando i migranti, un barchino con quattro uomini a bordo armati di Kalashnikov, che si sono avvicinati alla Guardia Costiera e hanno preteso e ottenuto ovviamente Kalashnikov in pugno di rientrare in possesso dell'imbarcazione, che sarà così utilizzata per un altro carico di disperati. Il ministro Lupi dice: quanto avvenuto è un ulteriore salto di qualità dell'orrendo traffico di donne, uomini, bambini del Mediterraneo. Siamo vicini agli uomini e donne della Guardia Costiera che si prodigano. Le frasi dei politici, però in realtà a mandarli lì con le armi, no, non si può. Evidentemente non si può. La Guardia Costiera recupera i clandestini, ma restituisce il barcone perché si presentano armati di Kalashnikov a richiederglielo. La situazione è difficile, cari italiani. Nel video dell'ISIS, la minaccia anche al nostro paese, tra l'altro Fiorenza Sarzanini fa sapere sul Corriere della Sera che sono pronti 200.000 migranti pronti a sbarcare. Questa cifra vengono utilizzati ovviamente anche come arma di pressione, questo è chiaro. E l'Italia cosa fa? Beh, venerdì scorso o sabato Renzi aveva detto: se l'ONU dice sì, siamo pronti a un'azione. In realtà oggi sui giornali c'è più un freno, calma e gesso. Questa è la linea di Renzi. Alla fine Renzi frena gli interventisti. Anche per il Messaggero, guardate, invio di truppe, il governo frena, ora cautela, prima la diplomazia. Il dietrofronte è stato dato da Renzi ai suoi con queste parole: c'è bisogno di responsabilità e non di fughe in avanti. La priorità non significa fretta, ma kairos. Momento opportuno. E ora la priorità è sostenere e raddoppiare gli sforzi dell'ONU. C'è un inviato dell'ONU, è un inviato in Libia, si tratta di Bernardino León, diplomatico spagnolo. Altra personalità però andrebbe affiancata, secondo l'Italia, questo Bernardino León, addirittura bisognerebbe affiancare un team in grado di rendere più incisiva la sua azione. Comunque, calma e gesso, questa sembra la linea renziana, dopo aver detto due giorni fa invece si può intervenire. Mentre chi si butta un po' in avanti è lo stesso Berlusconi che dice sì a un'eventuale azione militare. Anche Salvini dice: meglio schierare le truppe lì che al confine ucraino. Tra l'altro l'Italia la guerra alla Libia, come sapete, l'ha già fatta. Infatti adesso ci sono le polemiche. Il Giorno va a intervistare l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa, colui che nel 2011 era ministro della difesa, e dice: noi fummo costretti dalla ragione di Stato a intervenire per cacciare Gheddafi. Una volta che l'ONU si preannunciò, non potevamo fare altro, era tutto segnato. Non siamo stati convinti dalla Francia, come ha detto Prodi in un'intervista due giorni fa. Piuttosto, i francesi non tolleravano il rapporto privilegiato Italia-Libia. Siamo intervenuti per una ragione di Stato. Va detto che poi Berlusconi, per lui, non si trattava solo di un problema militare, aveva degli aspetti personali, perché diceva: Gheddafi mi ha trattato come amico, non solo nei rapporti economici. E quindi La Russa ricorda adesso il tempo della guerra a Gheddafi. Lo fa anche Alfano. In un'intervista a Repubblica, intervistato da Alberto D'Argenio, a pagina 3, dice: senza alcuna indulgenza da parte mia nei confronti di Gheddafi, la gestione di quella vicenda da parte della comunità internazionale e ancor più di quanto avvenuto dopo pesa ancora nella coscienza e nella responsabilità di chi fece quegli errori il cui conto salatissimo è stato pagato dall'Italia. Notare che Alfano era ministro della giustizia di quel governo che decise poi di andare in guerra sotto l'egida dell'ONU. Comunque Alfano dice: non c'è più tempo da perdere, il califfato è alle porte di casa, l'ONU si muova per fermarlo. Beh, il califfato è alle porte di casa in Libia, ma c'è un altro fronte, quello interno europeo, dove ancora ieri a Copenaghen, meglio l'altro ieri sera a Copenaghen, c'è stato un doppio attentato compiuto molto presumibilmente da colui che è stato poi ucciso, vale a dire questo ragazzo di 22 anni, come racconta il Corriere della Sera, Omar Abdel Hamid El Hussein, che a dispetto del nome è danese, nato e cresciuto in Danimarca. Non si capisce ancora se la sua famiglia abbia radici palestinese, originaria del campo profughi di Ain al-Ilweh nel Libano del Sud. Questo lo stanno appurando le autorità danesi. Sta di fatto che c'è stato prima l'assalto a un convegno dove si discuteva di libertà di informazione e c'era anche un vignettista molto nel mirino da anni, da quando ha fatto una vignetta con Maometto. E poi ha preso di mira invece la sinagoga, il centro ebraico. Due le vittime. All'attacco al convegno ha ucciso un giornalista che era lì, un regista peraltro, di cinema, e invece nell'attentato al centro ebraico ha ucciso, diciamo, il custode, colui che era il guardiano Dan Uzan, guardiano della sinagoga. È interessante che cosa? L'intervista che un po' ovunque rilascia Lars Vilks. Chi è Lars Vilks? Beh, è colui che probabilmente era il maggiore bersaglio dell'attentato da parte di questo ragazzo al convegno sulla libertà di stampa. Vilks, l'artista svedese nel mirino, dice: abbiamo accettato l'autocensura. Intervistato da Marco Imarisio, dice questa frase: meditate, gente, meditate. Eccola qui. Lars Vilks: la differenza è che io non faccio provocazioni, faccio arte. L'arte ha ogni diritto di essere irriverente, anche blasfema. L'uomo che nel settembre 2007 disegnò un Maometto cane ha spesso sottolineato la sua equidistanza nell'andarci pesante sulla religione, mostrando le sue opere che dileggiano quella cattolica, portando in giro per il mondo statue di legno che raffiguravano suore molto languide e discinte. Ed eccola la frase chiave che dice Lars Vilks e sulla quale vorrei che voi meditiate. Ho fatto questo nei confronti della religione cattolica, ma nessun vescovo, neppure il più bigotto, sa della mia esistenza. Questo dovrebbe chiudere ogni discorso sul grado di intolleranza di un certo Islam e dell'autocensura che ormai abbiamo incorporato dentro di noi. Questo dice Lars Vilks, intervistato dal Corriere della Sera, ma in realtà viene intervistato un po' da tutti. Anche Repubblica, anche la stampa, e racconta ovviamente anche di come è scampato dal terrore della sua vita, anche sempre blindata. Ma voglio salutare il nostro Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vedo che, come dire, mi hai associato questa volta ad eventi non proprio semplici. No, anche no, no. Le segnalazioni che ti volevo fare dal Sole 24 Ore di oggi, eviterei di parlare di calcio, no Alessandro? Evitiamo, dai, maccaroni a pranzo la domenica. Ma il peggior Milan era riferito alla trasmissione. Sì, no, è il titolo più bello del giornale. Ogni domenica il peggior Milan della stagione. Forse era riferito a me. Poi era il peggior Milan al Meazza e quindi diventava quasi una specie di lancio di questo nostro siparietto. Può essere. Vabbè, volevo invece dirti, abbiamo delle simulazioni su come cambia il valore imponibile con il nuovo catasto. Sai che siamo in faticosa elaborazione del nuovo catasto, non so quanto è stato chiaro come sta per cambiare. Comunque venerdì di questa settimana dovremmo vedere un ulteriore passo avanti. Noi oggi ti proponiamo anche una serie di simulazioni per spiegarti anche quali sono i valori, gli aspetti che verranno presi in considerazione per cambiare il valore di casa tua, ecco. Soprattutto la tua, naturalmente, soprattutto no? Nella mia mi aspetto una riduzione del valore, perché così stiamo rientrando in crisi. No, scherzo, naturalmente, ma per la tua sicuramente un aggravio. E poi oltre alle liti tributarie di cui già hai parlato, un'altra cosa che sarà decisiva questa settimana, scusa per il decisiva, è la riforma del lavoro, o cioè il Jobs Act. Ma qui possiamo dire, è pieno di settimane decisive, quindi una più. Però questa qui dovrebbe essere decisiva, nel senso dovrebbe. Si parte con il contratto a tutele crescenti con le collaborazioni a progetto, ma la materia è tutta in gran subbuglio. Allora proponiamo uno specchietto con una serie di figure contrattuali, ce ne sono parecchie, qualcuno ne ha contratto addirittura più di 40, uno specchietto che dice: per queste figure, ad esempio l'apprendistato o i contratti a termine o il job on call eccetera, come potrebbe cambiare stando a quello che abbiamo capito fin qui. Ma ripeto, tutto sarà più chiaro venerdì, perché questa è la settimana, dillo tu perché io un pochino ci ho riservo. Ecco, grazie, ti ringrazio molto. Dei siti web lanciati e poi abbandonati a se stessi così su internet, già si è detto nel corso del giornale radio. Comunque sappi che spesso, come dire, arriva un governo, arriva un ministro, fa un sito nuovo magari sulla stessa cosa su cui c'era il sito di prima. Vabbè, è il meraviglioso mondo di internet dove tutto è nuovo e la memoria spesso è molto corta. E poi ti voglio ricordare che, attenzione, perché entro il 2 marzo va consegnata al lavoratore la certificazione unica, sai che è quella, praticamente il nuovo CUD. Ecco. Non dire così, vabbè, che non devi dire, non dobbiamo dire così. Comunque facciamo un utile riepilogo nelle pagine di norme e tributi per prepararsi alla novità, perché rispetto non è, si è persa una D, ma molte altre cose invece sono aumentate, quindi bisogna farci caso. Va bene, è il momento, è il mio momento. Oh, benissimo. Allora, traffico! Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio. Mannaggia, è effettivamente Maccarone. Che miseria. Ho visto un gran bell'Empoli comunque, ci ha dato veramente una lezione di calcio. Essendo lievemente superiore a noi nei giocatori, era anche prevedibile. Comunque, veniamo alla questione politica invece. La politica è tutta col dibattito, ci sarà il disgelo oppure no. Secondo Francesco Bei di Repubblica c'è un profumo di tregua in realtà tra PD e Forza Italia, nonostante Brunetta vada a dire faremo vedere i sorci verdi a Renzi. In qualche modo racconta Repubblica che ci sarà il disgelo, si potrà ricucire con Forza Italia. Anche per il Corriere della Sera c'è l'unità del Partito Democratico e segnali di apertura, insomma le riforme di fronte a una nuova stagione democratica. Vabbè, il dibattito e la politica è un po' stantio. Devo dire che oggi sia il giornale sia il Fatto Quotidiano fanno che cosa? Un resoconto simile, probabilmente senza essersi chiamati ovviamente, su quello che è il potere del cosiddetto giglio magico. Sapete che c'era il cerchio magico con Bossi, e poi adesso il giglio magico. Comunque il cerchio magico si dice sempre di coloro che sono vicini all'uomo di potere. In questo caso il giglio magico perché si richiama Firenze. Ed eccolo qui allora, il giglio magico sul Fatto Quotidiano. Bacioni a Firenze, il poltronificio di Renzi e Boschi. Emiliano Liuzzi e Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano. Oppure Paolo Bracalini sul giornale, alla corte di Renzi è l'ora degli affari, imprenditori, banchieri, uomini di chiesa, editori, la lobby di Re Matteo mette le mani su soldi e potere. Sono due inchieste più o meno simili, visto che i nomi ricorrono, leggo per esempio dal reportage del Fatto di Emiliano Liuzzi e Davide Vecchi. Il consigliere più fedele di Renzi è Luca Lotti, che siede nel CDA della Fondazione Open, cassaforte personale di Renzi, nei palazzi cura i rapporti più delicati, le forze dell'ordine, i servizi segreti, il livello riservato degli uffici romani. Poi ovviamente altra protetta cresciuta pane Renzi è Maria Elena Boschi, anche lei inserita nel CDA della Fondazione Open, di cui è direttore generale. Nel 2009 lei sosteneva insieme a Francesco Bonifazi l'avversario alle primarie di Matteo, il dalemiano Ventura, ma poi con Bonifazi è salita sul carro del vincitore ed oggi è più realista del Reuccio, così scrive il Fatto. Ma poi c'è anche l'uomo cardine della sfera Boschi, l'avvocato Umberto Tombari, il professionista che ha battezzato verso la pratica legale la giovane Maria Elena, ancora non folgorata dalla politica. Oppure c'è la figura di Marco Carrai, anche questa centrale, così come Filippo Bonaccorsi, al cui il premier ha affidato la cabina di regia del Ministero della Pubblica Istruzione per ristrutturare 21.230 scuole. Altra pedina fondamentale del giglio magico, Antonella Manzione, da capo dei Vigili di Firenze, è diventata direttore generale del Comune e poi responsabile oggi del Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi. Insomma, tanti nomi che ricorrono. Se volete sapere quelli che sono anche i meccanismi del potere, di chi sono i nuovi potenti secondo il Fatto e il giornale, a fianco a Renzi li trovate. Tra l'altro, a proposito di scuola, c'è un interessante articolo di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, pagina 18. È uno studio della Fondazione Agnelli che va a studiare quello che sarà l'ingresso dei 140.000 precari che verranno stabilizzati. Questo è il progetto del governo Renzi. In realtà il segnale non è buono, almeno secondo questo studio, perché il titolo è questo: i nuovi prof assunti saranno quasi tutti al sud, ma soprattutto il tema fondamentale è stato fatto un monitoraggio: non insegnano le materie che servono. Insomma, la conclusione è drastica: l'ingresso di questi 140.000 precari peggiorerà la scuola, perché sono soprattutto scoperte le materie per le quali mancano gli insegnanti, mentre invece si rischia di andare ad assumere insegnanti che vanno a insegnare materie già coperte o che comunque non sono la materia della scuola del futuro. È un'analisi molto approfondita, statisticamente molto analizzata, la trovate sul Corriere della Sera, non posso sintetizzarla perché è molto corposa, ma il succo, secondo la Fondazione Agnelli, è questo: un ingresso di 140.000 precari che di fatto peggiorerà la scuola. In tutto questo si avvicina l'Expo e attenzione ai biglietti falsi, cari ascoltatori. Alessia Gaglione racconta, pagina 19 di Repubblica, i biglietti taroccati e i venditori fantasma nell'Expo. È una truffa mondiale già, che è stata scovata in parte in Cina, ma anche in Italia. In Cina sono già stati segnalati tour operator con tagliandi riprodotti con una tecnica artigianale, sono stati trovati perfino falsi certificati di qualifica per diventare rivenditore ufficiale con tanto di logo e firme copiate. Ah, sti cinesi! Mannaggia, ci hanno taroccato pure l'Expo. Vabbè, comunque, Alessia Gaglione racconta su Repubblica la stima dei biglietti da vendere: 24 milioni, già venduti 8 milioni, però attenzione, attenzione ai falsi, i falsi che ci sono soprattutto in Cina. Vabbè, su Sanremo, che dire, non è l'articolo più inutile scovato sui giornali, ma il titolo è questo: il volo conquista l'Italia, ma l'Italia prenderà il volo. Vabbè, insomma, questa è pagina 6 del giornale, ma non mica pagina 30. Ripeto, il volo conquista l'Italia, ma l'Italia prenderà il volo. Questo è il grande dibattito sul giornale, ma siamo al momento conclusivo. Quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, è un articoletto in realtà, piccolino, un trafiletto a pagina 9 del Messaggero, che ancora torna sul barbiere di Mattarella. Ma basta, il barbiere di Palermo, quello di fiducia, che ha detto: mi ha chiamato alle 13 il presidente, mi ha chiamato dicendo sono Sergio Mattarella, non ha detto il presidente, e ho dovuto sistemare gli errori del collega barbiere di Roma. Ma chi se ne frega!